Thank you. Quando è arrivato negli Stati Uniti, signor Vanzetti? 13 anni fa, nel 1908. Era già anarchico allora? Non completamente. Si spieghi, per favore. Avevo già visto come andavano le cose al mio paese. E speravo che qui fosse diverso. Lei dunque è diventato anarchico qui? Beh, diciamo che ho finito di diventarlo qui. Sa, quando si comincia a lavorare in fabbrica a 13 anni, e io ho cominciato a quell'età lì. E al momento dell'arresto, era ancora anarchico? E lo sono ancora. E lo sanno tutti qui dentro. E non capisco il perché di questa commedia. Signor Vanzetti, perché ha mentito alla stazione di polizia di Brockton la sera dell'arresto? Avevo paura. Paura di che? Signor Moore, lei lo sa che cosa facevamo in giro quella notte io e Nicola? Andavamo a ritirare il materiale di propaganda in casa dei compagni, per nasconderlo. Ecco perché ci serviva la macchina di Boda. Sapevamo che si stava preparando un'altra di quelle grandi razzie contro gli stranieri. E due giorni prima era stato trovato il corpo di un nostro compagno. All'alba. Dio. Signor Vanzetti. E voglio dirlo qui dentro in nome, Andrea Salcedo! Andrea Salcedo, nostro compagno, trovato all'alba, sfracellato, sotto gli uffici della polizia di New York!